ingenua nel soffiare i tuoi sì. Non capivo mai, non dicevi mai no. Peggiorata non saprei, però sono migliorato io. Forse Satana non sei, perderesti sempre contro Dio. Mi telefoni, dici ma come mai, che antipatico, non capisco cosa. Devi da me, e che poi fra noi restassero rose e fiori nei nostri cannoni, e il mio lo carico a salve, così ti sparo e ti saluto da me. Il destino preoccupato, un babbo come un zio, mi ha portato un altro amore, il tuo, te l'ho trovato io. Il finale è un po' speciale, senza compromessi, siamo amici come prima, che ti conoscessi. Ritelefoni, indecisa sul poi, io durissimo, come fanno gli eroi. Devi da me, che poi fra noi restassero rose e fiori nei nostri cannoni, e il mio lo carico a salve, così ti sparo e ti saluto da me. Me che c'è, ti sembro fuori di me, ma poi se vuoi, quando mi vedo tornare, devi da me, che c'è, che prende, devi.